in primo piano. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli. Oggi Giulia Crivelli si gode qualche giorno di meritata vacanza, allora cerchiamo di sostituirla indegnamente e buona vacanza a Giulia. Ma l'Europa, cosa fa l'Europa? Ecco, questa, come sapete, è stata una settimana ancora una volta ricca di eventi, allora cerchiamo di fare una piccola selezione. Basta guardare alla giornata di ieri, quindi il 14 luglio, un 14 luglio carica di emozioni, ma anche di contenuti, la presenza di Donald Trump a Parigi, quindi il nuovo che incontra quello che era il nuovo, il nuovissimo, il presidente francese Macron, che in qualche modo riparte, rinnesca una dinamica anche politica. Da una parte la Francia, che appunto un anno fa viveva alcune delle ore più drammatiche, che ridà speranza al suo paese, lo fa invitando quello che è ovviamente il capo di Stato, se vogliamo anche più potente, ma sicuramente più discusso di questi mesi. E allora leggiamo una riflessione su questo tema, si chiama La strana coppia dell'Occidente, la scrive sulla Stampa Stefano Stefanini, e dice: può darsi che l'Occidente e l'Atlantico siano irrimediabilmente incrinati i loro rapporti, certo che non smettono mai di stupire. Un anno fa nessuno avrebbe scommesso sui due presidenti che oggi celebrano la Bastiglia, il decisivo ingresso degli Stati Uniti nella guerra mondiale. Su uno dei due, forse, non su entrambi. Libertà e democrazia al potere fanno di questi scherzi. Aggiungiamo anche un pizzico della fantasia evocata dagli studenti del 68 sulle stesse strade parigine. La parata militare di oggi, scrive Stefanini appunto ieri sulla Stampa, con le uniformi francesi e americane del 1917, una parata ricca di simbolismi. La presenza di Donald Trump, su invito di Emmanuel Macron evidentemente, è anche sostanza. A parte episodici capricci come la cacciata della NATO da Parigi da parte di De Gaulle e lo screzio iracheno tra George Bush e Jacques Chirac, Francia e Stati Uniti condividono due secoli e mezzo di alleanza. Si sono sempre trovate sulla stessa parte. E apparentemente, insomma, oggi, prosegue Stefanini, quasi tutto divide il presidente francese da quello americano: l'età, la formazione culturale e professionale, la ricchezza, la famiglia. L'eccezione in comune non è però piccola cosa. Nell'arco di 7 mesi entrambi sono stati eletti da completi outsider, senza partito uno, Macron, o impadronendosi del partito, Donald Trump, contro ogni previsione degli esperti e cavalcando un analogo desiderio di rottura degli schemi politici tradizionali. Insomma, il centro ragionevole, moderato, europeista che ha portato Macron all'Eliseo è molto diverso dalla famigerata base populista che ha aperto a Trump le porte della Casa Bianca, ma in entrambi i casi è scattata tra gli elettori una molla rivoluzionaria. Insomma, qual è l'esito e dunque qual è la sintesi di questo commento in prima pagina, lo ricordiamo, sulla Stampa? Non ci sarà una convergenza di politiche, ancor meno intellettuale. Macron mantiene stretto il legame fondamentale con Angela Merkel, dividendo la giornata tra cancelliera tedesca e presidente americano. Il suo obiettivo, quello del presidente francese, è il rilancio dell'Europa e ha in Berlino il partner indispensabile. Non è necessariamente un'Europa identica a quello che hanno in mente Germania e Bruxelles. Merkel è continuità, Macron vuole cambiare marcia, non può accontentarsi del ruolo comprimario dei suoi predecessori, Hollande e Sarkozy. Predecessori che hanno avuto un ruolo da comprimario nei confronti della Germania. Non può aspirare alla parità economica, ma può rivendicare quella politica. Insomma, questa è la strana coppia dell'Occidente che sulla Stampa in qualche modo sintetizza quello che poi abbiamo visto con, devo dire, notevole curiosità, anche un Trump entusiasta di queste giornate, di questa lunga giornata parigina. Altri temi. A 3 giorni dalla prossima tornata negoziale sull'uscita del Regno Unito dall'Unione, è con cautela che l'establishment comunitario ha accolto il primo segnale del fatto che la Gran Bretagna riconosce di avere nei confronti di Bruxelles debiti finanziari. Queste sono le prime battute dell'articolo firmato da Beda Romano sul Sole 24 Ore. Il titolo è: Londra ammette, pagheremo debiti finanziari con l'Unione Europea. Allora, la questione è delicatissima, come possiamo immaginare. In questi ultimi giorni ha assunto una particolare particolare importanza. Nei giorni scorsi il capo negoziatore Michel Barnier aveva avvertito Londra che senza un riconoscimento esplicito il negoziato non potrebbe proseguire. Ufficialmente la Commissione europea non ha voluto commentare le notizie provenienti da Londra. In privato, qui a Bruxelles, scrive appunto il corrispondente del Sole, si aspetta di capire la portata della presa di posizione scritta che il governo del Premier Theresa May ha trasmesso al Parlamento britannico. Nel documento l'esecutivo ha riconosciuto nella parte dedicata alla soluzione finanziaria che la Gran Bretagna ha obblighi nei confronti dell'Unione tali da sopravvivere all'uscita del paese. Spiega un funzionario europeo. La dichiarazione contribuisce a fare chiarezza, è più positiva che negativa, ma per capirne di più dobbiamo aspettare la prossima settimana quando ne parleremo direttamente con la controparte. Aggiunge un altro esponente comunitario. Stiamo aspettando una posizione negoziale per quanto riguarda gli impegni finanziari del Regno Unito nei confronti dell'Unione. Finché non arriva, è difficile per noi commentare. Insomma, la comunicazione scritta al Parlamento inglese, scrive Beda Romano, è un primo passo, anche se l'impressione di molti a Bruxelles è che Londra voglia trascinare i piedi su questo fronte, anche per strappare concessioni su due altri fronti che sono oggetto di negoziato in questa fase, vale a dire il futuro delle nuove frontiere esterne dell'Unione, in particolare nell'Ulster irlandese, e i diritti dei cittadini britannici in Europa e dei cittadini europei in Gran Bretagna. Il capo negoziatore Barnier ha esortato Londra a pubblicare le sue posizioni negoziali. Insomma, dopo più di un anno dal referendum sulla Brexit, i lavori sono in corso, sembrano ormai vicini, quantomeno per la presentazione della posizione ufficiale di Londra, ma ancora va tutto messo nero su bianco. Questo dunque il punto della situazione. Poi, sempre nel corso della settimana abbiamo registrato questa comunicazione un po' preoccupante circa la mancanza di reciprocità contenuta nella proposta britannica sulla trattativa con Bruxelles, reciprocità per i diritti dei cittadini. Insomma, la questione ha preso ancora una volta una piega alquanto incerta. Un altro grande tema che direi in qualche modo chiude, insomma, tre, naturalmente ce ne sono molti altri, ma questi tre sono davvero temi centrali: rapporti internazionali, la Brexit, l'altro è quello dell'immigrazione. Allora, incontri e distanze. Lo sappiamo, il quadro generale: l'Italia abbiamo un problema particolare, specifico, geografico. L'Europa, intesa a 27, guarda altrove, ha delle posizioni diverse. Lo stesso Macron, cui il nostro governo in qualche modo si era rivolto sperando in un sostegno specifico, ha chiarito una netta distinzione tra migranti economici e rifugiati, quella porta in faccia che è stata poi, diciamo, titolata da molte testate. Allora, gli incontri vanno avanti e si continua a trattare su questa delicata questione. Allora vi segnalo su unews.it che un aggiornamento dei lavori. Proseguono i lavori per la stesura di un codice di condotta per le ONG operanti nel Mediterraneo per salvare i migranti che tentano la traversata verso l'Europa. La Commissione e l'Italia hanno avuto un incontro molto costruttivo a livello tecnico su una bozza preparata dalle autorità italiane. Lo ha spiegato la portavoce dell'esecutivo comunitario, Natasha Bertot, secondo cui l'obiettivo è fornire regole chiare su come imbarcazioni private, ma anche quelle della missione UE, debbano svolgere la loro operazione di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. La bozza del testo è in discussione, i portavoce dell'esecutivo comunitario non hanno ancora voluto diffondere dettagli, si sono limitati a ricordare che l'idea è stata sostenuta da tutti i paesi membri nel consiglio informale di Tallinn. Tallinn che, lo ricordate, è avvenuto di fatto il giorno precedente l'incontro dei G20 ad Amburgo. La sensazione è dell'ennesimo incontro di lavoro con l'enorme fatica di trovare un accordo, che non c'è, sulla gestione comune del grande fenomeno migratorio. Eccoci qua, tre degli articoli di questa settimana, naturalmente ce ne sono moltissimi altri. Vi ricordo, sul nostro sito www.radio24.it potete appunto digitare e cercare quelli che sono gli spunti, molti, della politica europea internazionale. Per adesso invece io vi saluto, vi auguro un ottimo fine settimana e naturalmente vi lascio all'ascolto di tutti gli altri programmi di Radio 24. Buon weekend!